senza domarli. Escono tardi, rientrano tardi, con gli occhi da matti, graffi sulle nocche, io non sono meglio. Ho già fatto a botte, ho lasciato il mio segno, fuori dalla tana, questo è il mio regno. A Perugina comando il movimento, e questo mio momento è eterno, attento. Non guardare chi sono, ma guarda chi divento. Tu guardami in faccia, una femmina caccia, il branco si alza, gli dico la marcia. Mani nel fango, io strillo, non piango, guerriera sopra un palco, sguardo verso l'alto. Sono io in comando, femmina alfa, ribalza, la massa si esalta. Vai, vieni pure qua giù, tra la mia tribù, reame animale non di Gesù. La femmina alfa inizia la marcia, tutti a voce alta. E mi dicono, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quelli tra le ombre, suonano le trombe, inno tronfale, corale, saccheggio locale, gareggio la rivale, danza tribale, K.O. nello zoo e do la pappa al cane. Lei mi può nominare, ma non mi può domare, difendo il trono reale, prendo pure lui, non mi faccio dominare, almeno che non sono io a farglielo fare. Esco solo la sera, tu cerchi una sposa, io pantera nera, tu pantera rosa, non è cosa se ci prova, dico di no, perché un porco non può controllare uno zoo. Quello che ho lo divido col branco, al massimo puoi farmi.